Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a tutti e bentrovati. Anche questo sabato siamo qui tutti insieme per parlare di una nuova sfida educativa. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, oggi direi che il sottotitolo della nostra puntata, anzi il titolo, potrebbe essere "Per chi non suona la campanella", un titolo proprio che abbiamo rubato alla grande. L'abbiamo rubato dall'articolo che è uscito ieri in realtà, sì. Quindi magari molti lettori lo scopriranno oggi su 24, il mensile del Sole 24 Ore. Io ti do anche un sottotitolo, sì. Che "Se è vero che conoscenza vuol dire libertà, la vera libertà si gode quando si è liberi di scegliere cosa si vuole sapere". Questo è l'incipit dell'articolo che ci ha fatto molto riflettere, molto pensare, che è il tema della un nostra... Un tema che viene descritto da una parola inglese. In linea con noi abbiamo Sasha Carnevali. Ciao Sasha. Buongiorno a tutti. Autrice appunto di questo articolo da cui noi prendiamo le mosse, "Per chi non suona la campanella", perché parla di scuola a casa, in pratica, quello che gli inglesi definiscono, vai con la pronuncia, home? Homeschooling. In Italia si chiama scuola familiare o istruzione parentale. In realtà è un fenomeno molto più diffuso nei paesi anglosassoni e soprattutto negli Stati Uniti e in Canada, ma soprattutto negli Stati Uniti, dove parliamo di cifre che si aggirano intorno ai 2 milioni di studenti compresi nell'età scolare, quindi tra asilo e fine della scuola media superiore. E sai che da noi poi a distanza di tempo però le mode americane arrivano anche qui, quindi noi iniziamo a parlarne anche perché, se con numeri molto ridotti, questo fenomeno sta prendendo un pochino, sta muovendo i primi passi anche in Italia. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Duccio Demetrio, che è ordinario di filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Autore tra l'altro di un libro di cui abbiamo parlato insieme proprio ad Alberto Pellai, "L'educazione non è finita, idee per difenderla", di Cortina Editore. Ed è fresco fresco di stampa un altro libro, "L'ascetismo metropolitano". L'ha presentato a Torino, ho letto. L'ho presentato a Torino, brevissimi. Vede che siamo aggiornate. Siete aggiornatissime. Siamo aggiornatissime, perché poi l'ha presentato nella mia città, che fa sempre delle iniziative magnifiche. Ma torniamo a scuola. Professore, Sasha ci ha descritto rapidamente, ma lo approfondiremo, questo fenomeno americano. Insomma, questa educazione familiare a casa. I ragazzini vengono in qualche modo istruiti dai genitori, è così che possiamo definirlo. Lei cosa ne pensa? Innanzitutto non è una novità, perché se ne parla da qualche centinaio d'anni. Ecco, questo va detto, cioè la tradizione dell'istitutore, che talvolta non era un maestro pagato dalle famiglie facoltose, ma spesso erano gli stessi padri a insegnare, a educare, traccia quindi una sorta di continuità che oggi vede senz'altro, ascoltati i numeri di prima, cioè in effetti deve essere molto, molto colpiti, che trova quindi sicuramente, troverà una certa risonanza e attenzione, perché sono tempi difficili quelli che noi viviamo, tempi dove da un lato prevale come il desiderio di avere sotto controllo il più possibile i propri figli e quindi di educarli secondo i propri orientamenti, i propri valori. Questo certamente può essere anche ammissibile, ma allo stesso tempo, e questo è un altro problema educativo, chi viene educato con queste modalità, certo, è come se vivesse in una sorta di bozzolo, in una sorta di luogo iperprotetto. Questa è sempre stata la critica che la pedagogia contemporanea ha rivolto nei confronti di queste modalità, che se da un lato certamente hanno un significato e un peso, e io su questo sono sempre stato d'accordo, laddove aiutano il più possibile l'individuo a crescere e a crescere nella propria individualità, nella propria soggettività, dall'altro però è come se lo sradicassero dal mondo delle relazioni, anche delle dalle difficoltà, dai conflitti, perché noi cresciamo anche mettendoci alla prova con gli altri. E anche fallendo, professore. E fallendo. Ecco, quindi le mie perplessità, ma credo che non siano soltanto le mie, certamente ci sono, ecco, ma credo che si tratti proprio di interrogarsi sul tempo difficile che noi stiamo vivendo, che ci porta a essere fin troppo iperprotettivi nei confronti dei nostri figli e ad assumerci anche funzioni che dovrebbero essere di altri adulti. Professore, più avanti avremo due mamme i cui figli stanno proprio frequentando la scuola con questa strategia dell'homeschooling e quindi probabilmente ci aiuteranno a capire se davvero è crescere un bambino in un bozzolo oppure sai dare altre opportunità. Ma a Sasha, che non è una tecnica del settore ma è una bravissima giornalista, tra l'altro l'escursus storico che lei anticipava è ben raccontato in tutto il suo articolo, chiedo a te come giornalista. Sasha, tu mi hai detto, ci hai detto fuori onda che ti è simpatico l'homeschooling, perché cosa ti ha colpito e cosa ti attrae di questa metodologia? Quello che mi attrae del homeschooling o scuola familiare è la libertà e l'elasticità con cui i ragazzi possono apprendere le materie che più gli interessano. Questo vuol dire essenzialmente non perdere troppo tempo nelle cose che sicuramente poi non utilizzeranno nella vita, perché sono argomenti che non si attengono alle loro attitudini, alla loro personalità. Voglio dire, la classica conversazione che abbiamo avuto tutti noi con i nostri genitori, che abbiamo tutti con i nostri figli, è: perché devo studiare latino, algebra o trigonometria quando non mi serviranno mai, perché sicuramente non li utilizzerò mai. È vero che secondo me la scuola ha una funzione importantissima, che è quella di presentare un ampio spettro di materie, di soggetti, in modo che ovviamente ogni individuo possa conoscere quali possono essere le sue attitudini, le sue competenze, i suoi piaceri. È anche vero che poi c'è una forzatura, soprattutto da un punto di vista pedagogico. Quello che ho riscontrato purtroppo spesso nella mia esperienza è di professori che cercano non di insegnare, nel senso di trasmettere una passione per una materia e quindi veramente interessare i ragazzi, ma cercare semplicemente l'errore, fare tana, come direbbero loro, e non dare delle vere competenze. Quindi da questo punto di vista credo che un'istruzione parentale possa aggirare questi ostacoli e creare un'atmosfera più piacevole in cui imparare, più motivante per i ragazzi. Allora io direi intanto la discussione è aperta, tra poco sentiremo anche le nostre mamme, il professor Duccio Demetri rimane con noi insieme a Sasha Carnevali, di cui abbiamo capito già le posizioni. Chissà se ad Alberto ti toccasse insegnare a quattro figli. Io non ce la farei, Alberto butta già la spugna, perché se uno ne ha tanti già, e poi bisogna essere preparati, insomma io avrei veramente dei grandi buchi. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, parliamo di scuola a casa, possiamo definirla anche così, homeschooling. Abbiamo preso spunto da un bellissimo articolo di Sasha Carnevali su 24, il mensile del Sole 24 Ore, che parla appunto di questa possibilità, di questo fenomeno diffuso in America, che però ha una storia, come scrive Sasha nell'articolo e ci ha ricordato il professor Duccio Demetrio. E sfogliando leggendo l'articolo, abbiamo visto che c'è in un boxino, è raccontato un aneddoto divertente che sentiamo insieme. Per cambiare una lampadina, prima la mamma studia 3 libri sull'elettricità in biblioteca. Poi i bambini fanno modellini di lampadine. Leggono una biografia di Thomas Alva Edison e fanno uno spettacolino sulla sua vita. Poi tutti studiano la storia dei metodi di illuminazione e fanno a mano delle candele. Segue una gita dal ferramenta dove si confrontano modelli di lampadine e prezzi, calcolando quanto resto si avrà per 2 lampadine da $1.99 pagando con un biglietto da $5. Sulla strada di casa nasce una discussione sulla storia del denaro e su Abraham Lincoln, visto che sulla banconota da $5 c'è il suo ritratto. Infine, dopo aver costruito una scala con rami secchi trascinati dal bosco, la lampadina viene cambiata. e luce fu. Allora, divertente, devo dire, sicuramente è molto coinvolgente, ma che fatica. Ma allora, partiamo da questa storia un po' che ci fa sorridere, che ci inquadra un po' il tema e il problema, ma andiamo nella realtà. In linea con noi abbiamo ben due mamme che stanno insegnando a casa i loro bambini. Una è Sibyl, buongiorno, Sibyl Kramer. Buongiorno. Sì, buongiorno. Posso darti del tu, Sibilla? Certo. Ok. E in linea con noi abbiamo anche Raffaella Cataldo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Raffaella. Ciao. Allora, questo aneddoto che abbiamo riportato dal mensile, insomma, vuole un po' raccontare quanto, no, ogni cosa dia lo spunto per farne un'altra in una ricerca continua. Ma Sibyl, a casa che cosa succede? Ma succede proprio un po' così, come in questo aneddoto, diciamo, che si inizia con un tema, poi si trovano altre, si fanno dei progetti appunto così che coinvolgono molte materie, diciamo. A noi succede spesso così, per esempio mio figlio di 13 anni quest'estate ha fatto una ricerca sulla massoneria e ci siamo persi, poi in James Watt, in tutti nella storia americana, Goethe, abbiamo fatto di tutto. Sibyl, concretamente sei mamma di due figlie di 13 e 10 anni, che praticamente studiano in casa con la mamma. Sì, dal giugno dell'anno scorso. Da giugno 2008. Mm-hmm. Com'è stata la procedura? Cioè, a noi viene in mente che se uno non manda i figli a scuola, arriva l'assistente sociale e fa qualcosa, perché questa è una... è come dire, sei fuori dalla legge. E invece com'è possibile? No, è tutto previsto dalla legge, è tutto a posto. Basta fare richiesta e... basta, si fa la richiesta, si parla con la direzione scolastica competente, poi si fanno i programmi, poi due volte all'anno dobbiamo presentare delle relazioni su cosa hanno imparato i bambini e via. E poi loro danno degli esami? Sì, in teoria sì, noi ancora non ce l'hanno fatto fare, abbiamo fatto la richiesta l'anno scorso, però ci hanno comunicato che devono ancora studiare in quale maniera devono fare l'esame, ecco, perché naturalmente per una direzione scolastica non è una cosa all'ordine del giorno tutti, certo, i giorni. Ma diciamo. Scusa, perché hai deciso di intraprendere questa strada? Ma diciamo che sono stati i figli a decidere così. La nostra storia è che il figlio grande ha fatto 2 anni di scuola pubblica qui nel nostro paesino. Poi abbiamo cambiato proprio su proposta dei maestri che hanno detto che lo vedrebbero più in una scuola, diciamo, alternativa a Waldorf o Montessori. Abbiamo trovato una piccola scuola che lavorava col metodo Montessori, gestita da genitori però, cioè non una scuola nel senso tradizionale. Quindi voi avete... E allora questa scuola ha dovuto chiudere appunto in giugno del 2008 per motivi economici, perché non riusciva più a essere gestita, e abbiamo detto: cosa facciamo? Torniamo alla scuola pubblica o che facciamo? E allora ho detto: ma mamma, non possiamo studiare a casa? E allora ho detto di sì. Certo. E quindi ti sei ripresa i libri in mano ed eccoci qua. Raffaella, invece, tu sei un ex insegnante, vero? Io sono un insegnante, sì. Sì. E anche tu hai deciso di fare homeschooling. Perché? Allora, tutto parte 10 anni fa, quando io ho cominciato a essere un precettore, diciamo, nell'homeschooling. Ho iniziato dall'altra parte, ho iniziato come un insegnante. Sì. Nella mia formazione di insegnante ho sempre avuto una riflessione che mi faceva toc toc dentro, e c'è l'osservazione che pochi vanno a scuola volentieri, non solo i bambini ma anche gli insegnanti, e che dall'altra parte i bambini però sono molto felici di imparare, in realtà, poi, nel senso che a casa fanno un sacco di domande, chiedono sempre tutto, eccetera. E perciò ho sempre avuto questo sogno da insegnante di insegnare in una scuola dove i bimbi andassero volentieri. E in qualche modo l'occasione è stata quando una bimba di alcuni amici ha avuto difficoltà a scuola, l'hanno passata in una scuola Waldorf, ma non riusciva proprio ad andare volentieri, aveva problemi di salute, eccetera. E io ho proposto di tenerla a casa e che me ne sarei occupata io come gli antichi precettori, diciamo. Come gli antichi precettori. È stato bellissimo perché in quell'anno questa bimba è rinata. E mi viene la pelle d'oca ancora adesso a pensarci, perché è stato bellissimo. E lei, tra l'altro, adesso è all'università, questa ragazza, perché è arrivata, che aveva era già grandina, e lei mi dice spesso che quello che l'ha colpita di quegli anni in cui abbiamo fatto scuola insieme e che lei ha imparato la bellezza di poter apprendere sempre e dovunque, e il piacere della conoscenza, no? Lei dice sempre di dovere a quegli anni questa cosa, e penso che non sia poco. No, assolutamente. Allora io volevo chiedere ad Alberto Pellai e al professor Demetrio, è possibile che in una parte, no, un anno particolare di un bambino per problemi di crescita, di tempi, di fasi, il ragazzino, il bambino abbia bisogno di proprio di avere un insegnamento di questo tipo, un contatto vis-à-vis costante con la mamma, un insegnante che si prenda cura di lui, Alberto? Ma devo dire che tutti quelli che come me lavorano con i soggetti in età evolutiva si rendono conto che negli ultimi anni, per esempio, il problema della fobia scolare si è molto diffuso e molto accresciuto, e ci sono poi bambini che hanno storie di vita molto particolari, per cui possono succedere eventi davvero significativi nel loro percorso di crescita, come un lutto, come una malattia, come un trauma, che rendono davvero complesso il poter accedere in modo completo e integrale a un percorso scolastico formalizzato. Però la sfida, secondo me, che ci stanno raccontando Sibyl e Raffaella è anche un'altra cosa, cioè oltre ai cosiddetti casi particolari, loro in realtà parlano di bambini che non hanno problemi, per esempio i figli di Sibyl non hanno problemi particolari e hanno comunque in qualche modo preferito a entrare in questo percorso formativo. Per cui chiederei al professor Demetrio, lei come la vede? Ma il mio parere è che, proprio a scanso di equivoci, quando noi accentuiamo una relazione a due con chi che sia, pensiamo anche ai momenti centrati sull'aiuto, alle terapie, qualcosa accade di molto importante, perché si ha una maggiore possibilità anche di entrare in dialogo e in una formazione interattiva molto, molto intensa, che aumenta indubbiamente e incoraggia l'apprendimento. E quindi potremmo dire che, se vogliamo, il metodo cui ci si ispira, di cui abbiamo sentito, risale addirittura a quel metodo famosissimo socratico, che si fondava su una relazione continua, incessante, argomentativa, un po' come l'aneddoto della lampadina che abbiamo ascoltato prima, cioè si lavora insieme, si diventa al centro di un'attenzione che aiuta a crescere, anche perché nelle situazioni difficili che prima venivano ricordate, certamente pensiamo anche a bambini in ospedale, pensiamo sì, anche al fatto che ci sono oggi degli educatori professionali che dipendono da cooperative sociali, che svolgono già un compito, anche se non sono genitori, di home schooling, no? Perché aiutano i più disagiati, i più in difficoltà, e questa mi sembra un'opera di aiuto sociale, di reinserimento scolastico di grandissima assolutamente importanza. Da premiare, certo. Ecco, il problema però riemerge in primo luogo perché io credo che quando parliamo di scuole di apprendimento non si debba pensare soltanto nella crescita di un bambino o di una bambina funzionalmente a ciò che deve studiare, ciò che deve apprendere, perché l'apprendimento è anche un apprendimento sociale, un apprendimento relazionale. Quindi io vorrei veramente chiedere allora a Sibyl e a Raffaella quali antidoti studiano, quali strategie per evitare che ci sia un'eccessiva maternalizzazione, siccome poi parliamo di mamme, non di padre, sì, in questo caso, nella loro importantissima, certamente, attività. Professor Demetrio, ormai ha spiazzato anche Alberto Pellai. Alberto, allora, adesso mi sembra una bellissima domanda quella del professor Demetrio, quindi Raffaele e Sibyl sono sicuramente pronte per rispondere, ci racconteranno, avremo anche il contributo di Sasha, che è in linea con noi. Sasha, stiamo veramente sviscerando il problema, un po' come l'hai fatto tu nell'articolo del Mensile 24. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, ma è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Bene bene, oggi grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro che si intitola La Panzanella, la storia di un brutto anatrocolo adolescente. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore e inviare un'email a esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono. Voilà! In collaborazione con IBS.it. Allora, riprendiamo rapidamente le fila del nostro discorso. Il professor Demetrio, Sasha e Raffaella vi ha fatto una domanda precisa. Allora, come cercate di compensare, come vi organizzate per far crescere anche i vostri figli dal punto di vista delle relazioni? A scuola i bambini stanno insieme, i vostri bambini stanno con voi, c'è questa figura di mamma che fa la mamma, fa l'insegnante, segue il loro percorso. Che cosa, come vi organizzate? Non so, professor Demetrio, se ho tradotto bene la sua domanda. Benissimo, mi sento un po' in imbarazzo, capisce, così, che a riassumere il professor Demetrio, ma insomma ho preso coraggio. Allora, Sibyl, che cosa fai tu? Allora, io penso che sarebbe un mondo molto triste se la scuola fosse l'unico posto dove si impara a socializzare. Niente, noi naturalmente i bambini sono meno a contatto di altri bambini perché non si incontrano ogni giorno per metà giornata con altri 20 bambini in una classe, però ci sono i pomeriggi dove altri bambini sono nel giardino o nel cortile a giocare, facciamo delle escursioni, andiamo in biblioteca, poi loro si sono iscritti a corsi di musica, cioè ci sono un mucchio di altre occasioni dove c'è questa possibilità, diciamo, e dall'altra parte abbiamo questa bella soddisfazione di vedere come loro, come fratelli, hanno instaurato questo rapporto molto profondo che altrimenti sarebbe andato perso, credo. Quindi tu hai notato un cambiamento nel rapporto tra i due fratelli rispetto a quando andavano a scuola? Sì, tra di loro sì. Sì, sì, perché sono insieme, hanno tantissimi interessi insieme, studiano molte cose anche insieme su certe materie. E, sì, è un rapporto molto vicino, diciamo, come io con mio fratello non l'avevo, ad esempio, perché si andava in due classi differenti, si aveva altri orari. Io vorrei sentire il parere di Raffaella e poi darei la parola ai nostri esperti, a Sasha. Raffaella, a te invece? Io vorrei fare una provocazione. Ma se sì, mi dai, provochiamoci. Perché non mi permetterei mai, ma in generale, perché questa è una critica abbastanza diffusa, no? Sì. All'homeschooling. Intanto condivido quello che ha detto Sibyl appieno, quindi diciamo chi fa homeschooling sceglie di aprire la casa e di avere una vita molto sociale in realtà, perché sa che questo è sicuramente un punto debole, soprattutto oggi in cui viviamo tutti nel nostro appartamento chiusi sigillati, certo. Perché una volta magari nella vita di paese era più facile. Allora vai con la provocazione. La mia provocazione è questa, che nelle ore di scuola, oggi soprattutto, perché noi forse ci ricordiamo la scuola di una volta, e la socializzazione a mio parere è ben ridotta, perché io sono a contatto con molti insegnanti, faccio anche corsi di aggiornamento dentro la scuola, alcuni insegnanti non fanno fare neanche l'intervallo ai bambini oggi, perché hanno paura che capitino delle cose, hanno l'assicurazione che le tormenta, eccetera. E quindi in realtà quello che imparano è stare in una classe, a stare insieme, certo, a lavorare insieme, a fare silenzio, a seguire quello che un adulto, arbitro, giudice o guida, dice sostanzialmente, no? Oppure in qualche modo ad adattarsi a delle abitudini di questa società, se vogliamo. Ma se la socializzazione deve essere, la intendiamo come un'abilità di relazione, e quindi un'abilità di stare in relazione con l'altro, rispettando me stesso, rispettando l'altro, capire i confini della mia libertà, aiutarsi reciprocamente. Ho capito, abbiamo capito la tua provocazione, che parte da una velata critica alla scuola, al modo in cui adesso oggi i bambini stanno a scuola. Alberto? Coinvolgerei Sasha anche nella versione di mamma, nel senso che se io penso alla mattina, per esempio, quando devo svegliare i miei bambini, io sono quello che porta i figli che vanno alla scuola. Sì, elementare. Se volete gli diamo un pulmino, porta anche i vostri. È proprio un po' la fatica di farli scendere dal letto, metterli in marcia, andare. Io mi domando, e poi comunque c'è l'ingresso alle 8 a scuola, quindi questo rimane un dato di fatto su cui i bambini si mettono in marcia, e penso che questa è una fatica che magari anche Sasha fa con i suoi figli, organizzare tutto perché entrino a scuola. Mi domando, tu che hai parlato anche con tante mamme che fanno l'homeschooling, ma loro come si organizzano nella vita di tutti i giorni? Cioè i bambini, suona una sorta di campanella virtuale anche in casa, alle 8 e mezza ci si mette a lavorare, perché guarda, un tema che più volte è entrato nella nostra trasmissione è la fatica dei genitori di accompagnare i figli, per esempio, nel fare i compiti o studiare le lezioni. Quindi mi immagino quanto faticoso deve essere dare una struttura proprio di ore e ore di scuola a casa, in cui è la mamma che si toglie praticamente il vestito da mamma e si mette il camice dell'insegnante. Sasha. Dunque, bisogna dire una cosa e precisare il fatto che ci sono vari modi di fare homeschooling. Una parte di genitori abbastanza consistente, soprattutto negli Stati Uniti, ma non credo che sia il caso in Italia, sono genitori che ricreano una mini scuola tra le mura domestiche, con orari, test, compiti in classe, interrogazioni, sì, libri di testo che poi sono gli stessi che vengono adottati nelle scuole. Sì. La differenza sta nel fatto che in genere chi adotta questo approccio sono famiglie molto religiose, che non mandano i figli a scuola perché scelgono, certo, di insegnare loro il creazionismo, di non sottoporli alle lezioni di educazione sessuale. Quindi è un, diciamo, è un, come dire, una censura che riguarda certi argomenti. Però chi fa homeschooling o unschooling, che forse è il termine più esatto per quello che per quanto riguarda quello che l'esperienza italiana, momento, direi. Sì, unschooling vuol dire lasciare ai ragazzi, ai bambini, la responsabilità di apprendere secondo il loro ritmo. E credo che questo sia il nucleo più positivo di questa pratica. Cosa vuol dire? Che ad esempio non c'è effettivamente una campanella, perché magari si finisce di studiare anche a mezzanotte, perché si è andati a teatro, perché si è stato in biblioteca fino a un'ora tarda, o si è guardato un film in lingua originale con i sottotitoli e poi se ne è parlato, e poi ci si alza alle 10. Ecco, alle 11. Quindi dalla tua risposta Alberto può capire che è un'organizzazione molto flessibile, perché si impara nelle 24 ore, o più o meno, almeno nelle 12. Professor Demetrio, lei aveva lanciato una domanda alle nostre mamme, vorrei sapere se le loro risposte l'hanno soddisfatta o vuole aggiungere qualcosa. Sì, beh, direi che anche Alberto ha provocato non poco, ecco, la sua domanda rispetto ai ritmi, alle norme. Sì, ma perché Alberto trova una formula, professore, per cercare di scampare alla tortura dell'accompagnamento, e allora... Ecco, lui lo fa per ragioni molto più pratiche. Sì, no. Da quanto Raffaella e Sibilla hanno detto, sicuramente ne esco più tranquillizzato, perché il rischio di effetto serra perlomeno è scongiurato. Abbiamo ascoltato che comunque c'è un'attività relazionale, di socializzazione, anche talvolta più ricca di quella che oggi giustamente avviene nella scuola, dove si sta inseguendo, diciamolo pure, un'iperattività di carattere didattico, che dimentica che si apprende anche per altra via, che si apprende fuori dalla scuola, che si apprende attraverso le esperienze che incuriosiscano, che siano diverse, ecco, da quello che i libri o altre tecniche possono fornirci. Quindi io credo che quanto è stato detto venga proprio incontro a una pedagogia centrata sul soggetto, di cui oggi si ha grande bisogno. La mia perplessità resta più in generale in riferimento al fatto, prima di tutto, che ci si trova dinanzi a un privilegio sociale. Quante sono le madri, i genitori che possono permettersi anche per loro formazione scolastica, per disponibilità di tempo, per il lavoro stressante, oggi questo tipo di attività? E allora la preoccupazione è che la scuola pubblica diventi sempre più un ricettacolo di difficoltà educative e di apprendimento, e che quei bambini più a disagio, che avrebbero ancora di più bisogno dei privilegiati di essere seguiti individualmente, no, rischiano di essere abbandonati alla deriva. Si prevede in futuro un aumento di evasione dell'obbligo, cioè queste sono proiezioni che già si stanno facendo con alcune svolte politiche scolastiche recenti. E l'altro aspetto che mi ha molto convinto è questa enfasi che io non posso che condividere sulla parola responsabilità, perché da quanto abbiamo ascoltato certamente si cura maggiormente la formazione del bambino o della bambina verso un orientamento a diventare adulti, dove la parola responsabilità è cruciale. Allora, io purtroppo per noi suona la campanella, perché noi dobbiamo salutare i nostri ospiti. Abbiamo sicuramente imparato tutti qualcosa di più, ci siamo confrontati. Io ringrazio le nostre mamme che sono intervenute, Raffaella Cataldo e Sibyl Kramer. Grazie, un saluto particolare ai vostri bambini. Grazie a voi. Saluto Sasha Carnevali, che con il suo articolo ci ha dato lo spunto per parlare di questo fenomeno. Speriamo di avere la nostra ospite presto. Grazie a voi. Lo spero. Professor Demetrio, grazie. Grazie a voi per essere stato con noi, per averci condotto in queste riflessioni insieme ad Alberto Pellai. Alberto, ho imparato molto. Guarda, il mio messaggio finale è: io spero che l'homeschooling contamini lo stile della scuola normale. Bene, lo speriamo tutti. Allora, noi ci diamo appuntamento al prossimo sabato con una nuova sfida educativa. Grazie a tutti, buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.